Radio 24 e Salone del Libro 2011 presentano L'Italia in 15 libri. Italo Calvino, il barone rampante. Qual è il primo gioco che fa un bambino a spasso? Andare fino alla punta del molo saltando da uno scoglio all'altro, percorrere un torrente senza mai passare per le strade, ma da una pietra all'altra del torrente, superando i punti difficili. Questa cosa del percorso che in fondo mi è sempre rimasta. La storia del barone rampante, pubblicato nel 1957, è tutta in questa intervista del suo autore, Italo Calvino. Cosimo, il protagonista, si arrampica su un albero per non essere costretto a mangiare un piatto di lumache e poi decide di non scendere più dai rami. Lassù passerà tutta la sua vita, sempre saltando da un ramo all'altro e senza mai rimettere il piede al suolo. E sarà una vita piena di storie, viaggi, amori, incontri ed esperienze. Lo spiega lo stesso Italo Calvino in un'intervista degli anni 60 alla TV pubblica francese. Ho immaginato una storia di un uomo che vive sugli alberi e non scende a terra. È un'immagine che mi ha ossessionato per molto tempo. Credo che abbia un significato simbolico, ma lascio aperte le più differenti interpretazioni. Credo che non sia un'immagine di evasione, ma un'immagine di solitudine, di volontà e di ostinazione. Il mio personaggio non rifiuta niente di quello che costituisce la vita degli uomini. Dunque una vita sugli alberi, nei boschi immaginari del paese di Umbrosa, anch'esso inventato per raccontare un'evasione che non è fuga, una solitudine che è anche partecipazione. Il commento di Gianluca Nicoletti. Io vivrei benissimo senza libri, perché tutti i libri che dovevo leggere ho già tutti letti nell'età che va dai 5 ai 7 anni. Ricordo che dagli autori che lessi quegli anni, quello che più fortemente mi ha impressionato e quello a cui più fortemente probabilmente ho preso questa mia smania, questo mio desiderio, questo mio anelito verso la leggerezza, è Italo Calvino. Italo Calvino soprattutto in Barone Rampante, della famosa trilogia, di questo ragazzo che per essere leggero smette di camminare con i piedi sulla terra e cammina sugli alberi. Esiste un mondo intermedio, un mondo parallelo, fra quelli che sono inchiodati al terreno e quelli che guardano verso il cielo, che è il mondo degli alberi. Vivere sugli alberi, passare di albero in albero e scoprire un'infinità di esistenze, di universi che stanno fra noi e i nostri pensieri. Il barone rampante è il frutto di un'invenzione di fantasia e nelle sue pagine ci sono molti rimandi letterari fantastici. Lo stesso Calvino, in uno scritto di 10 anni successivo, parla del suo barone come di un Don Chisciotte della filosofia dei lumi. Ma la fantasia non è tutto e guai a consegnarsi a lei mani e piedi. Qualche anno fa si diceva l'immaginazione al potere. Poi ripensandoci, il segreto è che l'immaginazione non prenda mai il potere. L'immaginazione, la fantasia, la creatività, di cui tanto si parla, devono contrapporsi a un elemento anche di routine, di limitatezza, di prevedibilità. Guai se c'è solo il prevedibile, ma il lavoro deve essere esatto, metodico, fatto secondo le certe regole. Poi è su quello che può nascere la creatività, se no è una specie di marmellata. Giovedì 19 settembre 1985, Italo Calvino muore a Siena a seguito di un ictus. 2 giorni dopo, Rai 3 stravolge la programmazione del sabato sera e manda in onda una lunga intervista realizzata qualche anno prima ad Alberto Sinigaglia e da Bruno Gambarotta del centro di produzione Rai di Torino. In quell'occasione Calvino ci ha lasciato anche un piccolo testamento, umano prima che letterario. Italo Calvino, 3 chiavi, 3 talismani per il 2000. Imparare delle poesie a memoria, perché quelle fanno compagnia, uno se le ripete. Fare dei calcoli a mano, delle divisioni, delle estrazioni di radice quadrata, delle cose molto complicate. Combattere l'astrattezza del linguaggio con delle cose molto, molto precise, però sapendo che da un momento all'altro tutto quello che abbiamo può sparire in una nuvola di fumo. L'Italia in 15 libri è un programma di Guido Scotti. Tutte le puntate sono scaricabili all'indirizzo www.radio24.it.